Il grido di guerra degli indiani. Il mattino dopo papà uscì fischiettando per andare ad arare la terra. Tornò a mezzogiorno nero di fuliggine, ma felice. L'erba alta non gli dava più fastidio. Ma c'era un problema con gli indiani. Ce n'erano sempre di più in riva al ruscello. Mary e Laura vedevano il fumo dei loro fuochi di giorno e di notte e sentivano le loro urla selvagge. Papà tornò presto dai campi. Si occupò degli animali prima del previsto e chiuse Pet e Patty, Bunny, la mucca e il vitello nella stalla. Non potevano stare fuori a pascolare sotto la luna. Quando il buio cominciava a stendersi sulla prateria e il vento era calmo, il rumore proveniente dagli accampamenti indiani diventava sempre più forte e sempre più terrificante. La porta era chiusa e il cordino tirato dentro. Nessuno sarebbe potuto uscire fino al mattino. La notte avanzava verso la piccola casa e il buio era inquietante, immerso nelle urla degli indiani. La notte cominciò a pulsare al suono dei loro tamburi. Durante il sonno Laura continuava a sentire quel lamento selvaggio e il rullio dei tamburi. Sentiva le unghie di Jack che grattavano il suo ringhio profondo. A volte papà si sedeva sul letto ad ascoltare. Una sera prese lo stampo delle pallottole dalla scatola sotto il letto. Sedette a lungo sul focolare, sciogliendo il piombo e preparando i proiettili. Non si fermò finché non ebbe utilizzato tutto il piombo. Laura e Mary erano sveglie e lo guardavano. Non aveva mai fatto così tanti proiettili in una volta sola prima di allora. Mary chiese: "Perché lo fai, papà?" "Oh, non ho nient'altro da fare", disse papà e cominciò a fischiettare allegramente. Ma aveva aratto tutto il giorno. Era troppo stanco per suonare il violino. Avrebbe dovuto andare a letto invece di stare alzato fino a tardi a fare proiettili. Nessun indiano venne più a casa. Per giorni Mary e Laura non ne videro nemmeno uno. Mary non voleva più andare fuori. Se voleva giocare all'aperto, Laura doveva farlo da sola. E aveva quella strana sensazione nella prateria. Non si sentiva al sicuro. Sembrava che la prateria nascondesse qualcosa. A volte Laura aveva l'impressione che qualcuno la osservasse, o che qualcosa si avvicinasse silenziosamente alle sue spalle. Si voltava in fretta, ma non c'era nessuno. Il signor Scott e il signor Edwards, con le loro pistole, vennero a parlare con papà nei campi. Parlarono per un po', poi andarono via insieme. Laura era dispiaciuta perché il signor Edwards non era passato da casa. A cena papà disse a mamma che alcuni dei coloni stavano parlando di costruire un recinto. Laura non sapeva cosa fosse un recinto. Papà aveva detto al signor Scott e al signor Edwards che era un'idea insensata. Disse a mamma: "Se abbiamo davvero bisogno, non faremo in tempo a costruirlo. È l'ultima cosa che voglio, comportarmi come se avessimo paura." Mary e Laura si guardarono. Sapevano che era inutile fare domande. Si sarebbero sentite dire ancora una volta che le bambine non devono parlare a tavola, a meno che non siano interpellate, o che le bambine dovrebbero essere viste ma non sentite. Quel pomeriggio Laura chiese a mamma cosa fosse un recinto. Mamma rispose che serviva a fare in modo che le bambine facessero tante domande, il che significava che gli adulti non avrebbero spiegato loro di cosa si trattava. E Mary le lanciò un'occhiata che sembrava dire: "Te l'avevo detto." Laura non sapeva perché papà aveva detto che non dovevano agire come se avessero paura. Papà non aveva mai paura. Laura non voleva agire come se avesse paura, ma ce l'aveva. Aveva paura degli indiani. Jack non abbassava mai le orecchie e non sorrideva più a Laura. Anche quando lei lo coccolava, le sue orecchie erano alzate, il pelo dritto e la bocca mostrava i denti. E i suoi occhi erano rabbiosi. Ogni notte ringhiava in modo più aggressivo e ogni notte i tamburi degli indiani battevano più veloci. E il lamento selvaggio si alzava sempre più alto. Nel bel mezzo della notte Laura sedette dritta sul letto e urlò. Un suono terribile le aveva fatto venire i sudori freddi. Mamma le si avvicinò in fretta e disse gentilmente: "Sta calma, Laura, o spaventerai Carrie." Laura si avvinghiò a mamma e si accorse che era ancora vestita. Il fuoco era ricoperto di cenere, la casa era buia, ma lei non era ancora andata a letto. La luce della luna entrava dalla finestra. Le persiane erano aperte, papà stava in piedi al buio, vicino alla finestra. Guardava fuori e aveva il fucile in mano. Fuori nella notte i tamburi battevano e gli indiani urlavano selvaggiamente. Poi si udì nuovamente quel suono terribile. Laura si sentiva come se stesse cadendo. Non poteva aggrapparsi a niente. Non c'era più nulla di solido da nessuna parte. Le sembrò che fosse passata un'eternità, prima che riuscisse di nuovo a vedere, pensare o parlare. Urlò: "Cos'è? Cos'è? Opa, cos'è?" Tremava dalla testa ai piedi, aveva male alla pancia. Sentiva il suono dei tamburi e le urla selvagge e sentiva mamma che la stringeva a sé. Papà disse: "È il grido di guerra degli indiani, Laura." Mamma emise un suono leggero e lui le disse: "Tanto vale che lo sappiano, Caroline." Spiegò a Laura che quello era il modo in cui gli indiani parlavano di guerra. Ne stavano solo parlando, danzando intorno al fuoco. Mary e Laura non dovevano avere paura perché c'era papà e Jack e c'erano soldati a Fort Gibson e a Fort Dodge. Quindi non avere paura, Laura, disse ancora. Laura ansimò e disse: "No, pa." Ma era terribilmente spaventata. Mary non poté dire nulla, tremava sotto le coperte. Poi Carrie cominciò a piangere, così mamma la portò sulla sedia a dondolo e prese a cullarla dolcemente. Laura scivolò fuori dal letto e si raggomitolò contro il ginocchio di mamma. Mary, rimasta sola, si alzò a sua volta e si rannicchiò vicino a loro. Papà rimase a guardare fuori dalla finestra. I tamburi sembravano pulsare nella testa di Laura, vibravano dentro di lei. Il grido selvaggio era peggio di quello dei lupi. Laura sapeva che qualcosa di ancora più terribile sarebbe arrivato. Ed eccolo, il grido di guerra degli indiani. Quella notte fu più terribile di un incubo. Un incubo è solo un sogno e nel momento peggiore ci si sveglia, ma quella notte era reale e Laura non poteva svegliarsi né allontanarsi. Quando il grido di guerra fu terminato, Laura sapeva che non era ancora finita. Stava immobile nella casa buia, appoggiata a mamma che tremava dalla testa ai piedi. Il gemito di Jack sfociò in un ringhio singhiozzante. Carrie ricominciò a urlare, papà si asciugò la fronte e sospirò. "Non ho mai sentito nulla del genere", disse. "Come credete che abbiano imparato a farlo?" Ma nessuno rispose. "Non hanno bisogno di armi. Quel grido basta a spaventare a morte chiunque", disse papà. "Ho la bocca così secca che non potrei fischiare nemmeno se servisse a salvarmi la vita. Dammi un po' di acqua, Laura." Questo la fece sentire meglio. Portò un mestolo pieno d'acqua a papà vicino alla finestra. Lui lo prese e le sorrise, e questo la fece sentire molto, molto meglio. Beve un poco, poi sorrise e disse: "Ecco, ora posso fischiare." E fischiò qualche nota per provarle che ci riusciva. Poi si mise in ascolto e anche Laura lo fece. Sentirono in lontananza il leggero ticchettio delle zampe di un pony al galoppo. Si avvicinava. Da un lato della casa arrivarono il suono dei tamburi e le urla veloci, acute e stridule, dall'altro il rumore del cavallo al galoppo. Veniva sempre più vicino, i zoccoli sbattevano rumorosamente, poi passarono oltre. Il galoppo continuò e il suono divenne più flebile, spostandosi lungo il sentiero che andava a ruscello. Alla luce della luna, Laura vide allontanarsi un piccolo pony nero con un indiano in groppa. Vide un mucchio di coperte, una testa rasata, un ciuffo di piume che si agitava su di essa e il riflesso della luna sulla canna di un fucile. Poi tutto scomparve. Non restava altro che la vuota prateria. Papà disse che non sapeva cosa fare. Disse che quello era l'indiano Osage che aveva provato a parlargli in francese. Chiese: "Cosa starà facendo a quest'ora al galoppo, a tutta velocità?" Nessuno rispose perché nessuno lo sapeva. I tamburi risuonavano e gli indiani continuavano a urlare. Il terribile grido di guerra si ripeté ancora e ancora. Pian piano, dopo un lungo periodo di tempo, le urla diminuirono e scemarono. Alla fine, Carrie pianse fino ad addormentarsi. Mamma mandò Mary e Laura di nuovo a letto. Il giorno dopo non poterono uscire di casa. Papà rimase nei paraggi, non c'era più nessun suono proveniente dagli accampamenti indiani, solo il freddo soffiava sulla terra annerita, dove non c'era erba da far frusciare. Tutta l'immensa prateria era immobile. Il vento soffiava sulla casa con un suono frettoloso come l'acqua che scorre. Quella notte il rumore degli accampamenti indiani fu ancora peggio della notte precedente. Ancora una volta le grida di guerra erano più terribili del più spaventoso degli incubi. Laura e Mary si rannicchiarono vicino a mamma. La povera piccola Carrie pianse e papà guardò fuori dalla finestra imbracciando il fucile. E per tutta la notte Jack camminò avanti e indietro e ringhiò, urlando quando sentiva il grido di guerra. La notte successiva e quella dopo ancora fu sempre peggio. Mary e Laura erano così stanche che si addormentavano mentre i tamburi suonavano e gli indiani urlavano, ma il grido di guerra le svegliava sempre di colpo, terrorizzandole. Le giornate silenziose erano anche peggio delle notti. Papà restava tutto il tempo in ascolto, allerta. L'aratro era nel campo dove l'aveva lasciato. Pat, Patty e il puledro, la mucca e il vitello rimanevano nella stalla. Mary e Laura non potevano uscire e papà non smetteva mai di scrutare la prateria tutto intorno, voltandosi di scatto al minimo rumore. A cena mangiava malapena, continuava ad alzarsi e ad andare fuori a controllare. Un giorno chinò la testa sul tavolo e si addormentò così. Mamma, Mary e Laura rimasero immobili per lasciarlo dormire. Era così stanco. Ma un minuto dopo si svegliò di soprassalto e disse bruscamente a mamma: «Non lasciare che accada di nuovo!» Jack era di guardia, disse mamma gentilmente. Quella notte fu la peggiore di tutte. I tamburi suonavano più forte, le urla erano più feroci. Lungo il ruscello, grida di guerra rispondevano a grida di guerra, riecheggiando per tutta la valle senza sosta. Laura aveva dolori dappertutto e un forte mal di pancia. Alla finestra papà disse: «Caroline, stanno litigando. Forse si batteranno tra di loro.» «Oh, Charles, se solo fosse così», disse mamma. Per tutta la notte non ci fu un attimo di pace. Poco prima dell'alba risuonò un ultimo grido di guerra e Laura si addormentò sulle ginocchia di mamma. Si svegliò nel letto. Mary dormiva accanto a lei. La porta era aperta e dalla luce sul pavimento Laura capì che era quasi mezzogiorno. Mamma stava cucinando. Papà sedeva sulla porta. Disse a mamma: «C'è un altro grosso gruppo diretto verso sud.» Laura andò alla porta in camicia da notte e vide una lunga fila di indiani in lontananza. La fila sbucava fuori dalla nera prateria e si dirigeva verso sud. Gli indiani in groppa ai loro pony, visti da lontano, non erano più grandi di una fila di formiche. Papà disse che due grossi gruppi di indiani erano partiti verso ovest quella mattina. Ora questo andava a sud, voleva dire che gli indiani avevano litigato tra loro. Stavano lasciando gli accampamenti vicino al ruscello. Non sarebbero partiti tutti insieme per la caccia al bufalo. Quella notte il buio scese silenzioso. Non si udiva altro suono che il frusciare del vento. «Stanotte si dorme», disse papà. E così fu. Per tutta la notte non sognarono nemmeno e al mattino Jack era ancora stravaccato nel punto in cui si trovava quando Laura era andata a letto. Anche la notte successiva fu calma e ancora una volta dormirono tutti profondamente. Il mattino dopo papà disse che si sentiva fresco come una rosa e che sarebbe andato a dare un'occhiata in riva al ruscello. Incatenò Jack all'anello nel muro della casa, prese il fucile e scomparve lungo la strada che scendeva al ruscello. Laura, Mary e mamma non poterono fare altro che aspettare il suo ritorno. Rimasero in casa a sperare che rientrasse. La luce del sole non si era mai spostata così lentamente sul pavimento come quel giorno. Alla fine papà tornò. Arrivò nel tardo pomeriggio e tutto era a posto. Era andato su e giù per le rive del ruscello e aveva visto tanti accampamenti indiani abbandonati. Tutti gli indiani erano andati via, tranne una tribù chiamata Osage. Nei boschi papà aveva incontrato un Osage che parlava la loro lingua. L'indiano gli aveva detto che tutte le tribù, a eccezione della loro, avevano deciso di uccidere i bianchi che si erano insediati nelle loro terre e stavano per farlo quando l'indiano solitario era arrivato al galoppo al loro raduno. L'indiano era arrivato cavalcando così in fretta perché non voleva che uccidessero i bianchi. Era un Osage, da come lo chiamavano si capiva che era un grande soldato. Soldat Duchesne, papà disse che era quello il suo nome. Aveva discusso con loro per tutta la notte, disse papà, finché tutti gli altri Osage non erano stati d'accordo con lui. Quindi si era alzato e aveva detto alle altre tribù che se avessero ucciso i bianchi, gli Osage si sarebbero battuti contro di loro. Ecco cos'era tutto quel rumore, l'ultima terribile notte. Le altre tribù urlavano agli Osage e gli Osage rispondevano urlando a loro volta. Gli altri indiani non avrebbero osato battersi contro il soldato Duchesne e la sua tribù. Così, il giorno dopo erano ripartiti. «Questo sì che è un indiano buono», disse papà. Qualunque cosa dicesse il signor Scott, papà non credeva che l'unico indiano buono fosse quello morto. La partenza degli indiani. Ci fu un'altra lunga notte di sonno. Era bello coricarsi e dormire profondamente. Tutto era calmo e tranquillo. Solo i gufi cantavano uh-uh, uh-uh. Nei boschi lungo il ruscello, mentre la grande luna attraversava lentamente il cielo sopra l'infinita prateria. Il giorno dopo il sole splendeva, caldo, giù in riva al ruscello, le rane gracchiavano, urlavano dalle rive dello stagno. Da quando mamma aveva spiegato loro cosa dicono le rane, Mary e Laura riuscivano a sentire distintamente le parole. La porta era aperta per lasciare entrare la fresca aria primaverile. Dopo colazione, papà uscì fischiettando allegramente. Voleva legare di nuovo Pet e Patty al picchetto, ma il suo fischiettare si interruppe bruscamente, si fermò sulla porta guardando verso est e disse: «Vieni qui, Caroline. Anche voi, Mary e Laura.» Laura corse fuori per prima e fu sorpresa. Gli indiani stavano arrivando. Non seguivano il sentiero che portava al ruscello. Arrivavano a cavallo, dal ruscello diretti a est. Prima arrivò il grande indiano che era passato cavalcando vicino a casa alla luce della luna. Jack ringhiava, il cuore di Laura batteva forte. Era felice di essere vicino a papà. Mamma sapeva che questo era l'indiano buono, quello che aveva fatto cessare le terribili grida di guerra. Il suo pony nero avanzava al trotto di buona lena, fiutando l'aria, che faceva fluttuare la sua criniera e la sua coda come bandiere al vento. Il naso e la testa del pony erano liberi, non aveva briglie, nemmeno una cinghia da nessuna parte. Nulla che potesse obbligarlo a fare qualcosa che non volesse. Avanzava lungo il sentiero, come se fosse un piacere per lui trasportare l'indiano. Jack ringhiava furiosamente, cercando di liberarsi della catena. Si ricordava di quell'indiano che gli aveva puntato addosso il fucile. Papà disse: «Stai fermo, Jack!» Jack ringhiò ancora e per la prima volta in vita sua papà lo colpì. «Stai giù, stai fermo!» disse papà. Jack si fece piccolo piccolo e rimase immobile. Il pony era ormai molto vicino e il cuore di Laura batteva sempre più forte. Guardò i mocassini con le perline dell'indiano e i pantaloni con le frange che penzolavano a pelo sui fianchi del pony. L'indiano era avvolto in una coperta dai colori brillanti. Un braccio nudo, marrone rossiccio, teneva un fucile appoggiato sulle spalle del pony. Poi Laura guardò il volto scuro, immobile e minaccioso dell'indiano. Era un volto fiero e impassibile. Qualunque cosa fosse accaduta, sarebbe rimasto così, niente avrebbe potuto cambiarlo. Solo gli occhi, fissi verso ovest, ravvivarono quel volto. Non si mossero, niente si mosse, niente cambiò, a eccezione delle piume d'aquila che stavano dritte sullo scalpo rasato. Le lunghe piume si muovevano su e giù, ondeggiando e roteando al vento, mentre il grande indiano in groppa al suo pony passava in lontananza. «Duchenne in persona», disse papà sottovoce. E sollevò la mano per salutarlo. Ma il pony felice e l'indiano impassibile proseguirono per la loro strada. Passarono come se la casa, la stalla, papà, mamma, Mary e Laura non ci fossero. Papà, mamma e Mary e Laura si voltarono lentamente osservando il portamento dignitoso dell'indiano. Poi altri pony, altre coperte, altre teste rasate e altre piume d'aquila passarono di lì, uno dopo l'altro. Altri guerrieri selvaggi seguivano a cavallo Duchenne, faccia scura dopo faccia scura. Le criniere e le code dei pony ondeggiavano al vento, le perline brillavano, le frange sventolavano, le piume d'aquila ondeggiavano su tutte quelle teste rasate. I fucili, appoggiati a pelo sui pony, si drizzavano lungo tutta la fila. Laura era entusiasta alla vista dei pony. Ce n'erano di neri, rossi, grigi, di marroni e di chiazzati. I loro piccoli zoccoli scalpitavano lungo il sentiero indiano. Le narici si allargavano per annusare Jack, mentre i loro corpi se ne discostavano timidamente. Continuavano ad avanzare, coraggiosi, guardando Laura con i loro occhi limpidi. «Oh, che bei pony! Guardate che bei pony!» urlò battendo le mani. «Guardate quello chiazzato!» Pensava che non si sarebbe mai stancata di guardare i pony passare, ma dopo un po' cominciò a guardare le donne e i bambini che cavalcavano dietro agli uomini. Piccoli indiani nudi, non più grandi di Mary e Laura, cavalcavano quei bei pony. I pony non dovevano indossare briglie o selle, e i piccoli indiani non dovevano indossare vestiti. Tutta la loro pelle era scoperta, all'aria fresca e al sole. I loro capelli neri e lisci ondeggiavano al vento. E gli occhi neri brillavano di gioia, montavano i loro pony dritti e calmi come gli indiani adulti. Laura continuava a guardare i bambini indiani e loro guardavano lei. Per un attimo desiderò essere una bambina indiana, Ovviamente non lo desiderava sul serio, avrebbe solo voluto starsene nuda al vento e al sole e cavalcare uno di quei bei pony allegri. Anche le madri dei bambini indiani cavalcavano i pony. Le frange di pelle penzolavano lungo le loro gambe e avevano coperte a volte intorno al corpo, ma sulle teste non avevano altro che i loro capelli lisci e neri. Le facce erano scure, imperturbabili. Alcune di loro portavano un grosso cesto legato sulla schiena con la testa di un bambino che sboccava fuori. Alcuni neonati e bambini piccoli erano trasportati in cestini appesi ai lati dei pony accanto alle loro madri. Passarono molti altri pony e bambini sulla schiena delle loro madri e nei cestini appesi ai lati dei pony. Poi arrivò una madre con due cestini, uno a ogni lato del pony, e un bambino dentro ciascun cestino. Laura guardò dritto negli occhi del bambino più vicino a lei. Dal bordo del cestino spuntava solo la testa. I suoi capelli erano neri come le piume di un corvo e gli occhi scuri come una notte senza stelle. Gli occhi scuri fissarono quelli di Laura, che si perse nel nero di quegli occhi e desiderò quel bambino. Pa! Disse, prendimi quel bambino. Shh, Laura! Le disse papà severamente. Il bambino era passato e i suoi occhi restavano fissi in quelli di Laura. Oh, lo voglio, supplicò Laura. Il bambino si allontanava sempre di più, ma non smetteva di guardare Laura. Vuole stare con me, supplicò. Per favore, pa, per favore. Zitta, Laura, disse papà. La donna indiana vuole tenersi il suo bambino. Oh, pa, implorò Laura e cominciò a piangere. Il suo pianto era fuori luogo, ma non riusciva a trattenerlo. Il piccolo indiano era andato. Sapeva che non lo avrebbe visto mai più. Mamma disse che non aveva mai sentito una cosa del genere. Santo cielo, Laura, disse. Ma Laura non riusciva a smettere di piangere. Perché mai dovresti volere un bambino indiano? E i suoi occhi erano così neri, singhiozzò Laura. Non riuscì a spiegare quello che provava. Ma perché, Laura? Disse mamma. Tu non vuoi un altro bambino, ne abbiamo una, la nostra. Voglio anche l'altro. Oh, non ci posso credere, esclamò mamma. Guarda gli indiani, Laura, disse papà. Guarda a ovest e poi guarda a est, guarda. All'inizio Laura vedeva a malapena, aveva gli occhi pieni di lacrime e continuava a singhiozzare, ma fece del suo meglio per obbedire a papà e presto si calmò. Fin dove arrivava il suo sguardo, a ovest come a est, c'erano indiani. Quella lunga fila non aveva fine. Sono un sacco di indiani, disse papà. Altri indiani passarono a cavallo. La piccola Carrie si era stufata di guardarli e giocava da sola sul pavimento. Laura invece sedeva sul gradino d'ingresso con papà accanto a lei, mentre mamma e Mary stavano in piedi sulla porta. Guardavano, guardavano e guardavano passare gli indiani. Era ora di cena e nessuno ci pensava. I pony indiani continuavano a passare trasportando mucchi di pelli, pali per le tende, cesti e pentole appese. C'erano ancora alcune donne e ancora bambini nudi. Poi l'ultimo pony passò. Papà, mamma, Laura e Mary rimasero sulla porta a guardare quella lunga fila di indiani finché non scomparve verso ovest, oltre i confini del mondo. Non rimaneva altro che vuoto e silenzio, il mondo intero sembrava solitario e silenzioso. Mamma disse che non aveva voglia di fare niente, si sentiva amareggiata. Papà le disse di non fare nulla e di riposarsi. Devi mangiare qualcosa, Charles, disse mamma. No, rispose papà, non ho fame. Con aria seria andò ad agganciare Pet e Patty e ricominciò a dissodare la terra con l'aratro. Nemmeno Laura aveva voglia di mangiare. Sedette a lungo sul gradino dell'ingresso, guardando il vuoto a ovest dove erano andati gli indiani. Le sembrava di vedere ancora le piume ondeggianti e gli occhi neri e di sentire lo scalpitio dei pony.